Unità 1. Lessico. Traccia 4. 1. Giuseppe. 2. Maria. 3. Antonio. 4. Anna. 5. Giovanni. 6. Rosa. 7. Francesco. 8. Giuseppina. 9. Mario. 10. Angela. 11. Luigi. 12. Giovanna.